Yes, people, questo è Jolly Roger, puntata di venerdì 23 dicembre. Siamo agli sgoccioli di questa chiusura anno 2022, siamo prossimi al Natale, domani è quella che è la vigilia e ultima puntata per Jolly Roger per questo 2022. Salutiamo tutti gli amici e tutte le amiche che ci ascoltano, salutiamo tutte le nostre amiche del GAS con la quale condividiamo lo spazio del Brancaleone e salutiamo soprattutto tutti gli amici e tutte le amiche che frequentano lo spazio del Brancaleone. Li ringraziamo come sempre per l'ospitalità. Senza di loro, Jolly Roger, è un programma a metà. Ringraziamo e salutiamo anche tutti i compagni e tutte le compagne della nostra cooperativa di Idea Prisma, e in particolar modo saluto il nostro irresponsabile Emanuele Petrella di Welcome, che salutiamo, visto che ci è stato a trovare la settimana scorsa e gli avevamo fatto una promessa con un pezzo che non avevamo potuto passare settimana scorsa, un po' perché ci siamo dilungati in piacevoli chiacchiere, e allora abbiamo deciso di iniziare la puntata così, salutando tutte le amiche e tutti gli amici. Anche se il nostro omaggio ha fatto a meno del vostro coraggio, se la paura di guardare vi ha fatto chinare il mento, se il fuoco ha risparmiato le vostre 1100, anche se voi vi credete assolti, siete lo stesso coinvolti. E se vi siete detti, non sta succedendo niente, le fabbriche riapriranno, arresteranno qualche studente, convinti che fosse un gioco a cui avremmo giocato poco, provate pure a credervi assolti, siete lo stesso coinvolti. E questo è un saluto a tutti gli amici di Welcome. Anche se avete chiuso le vostre porte sul nostro muso, la notte che le pantere ci mordevano il sedere, lasciandoci in buona fede massacrare sui marciapiede, anche se ora ve ne fregate, voi quella notte voi c'eravate. E se nei vostri quartieri tutto è rimasto come ieri, senza le barricate, senza feriti, senza granate, se avete preso per buone le verità della televisione, anche se allora vi siete assolti, siete lo stesso coinvolti. E se credete ora che tutto sia come prima, perché avete votato ancora la sicurezza, la disciplina, convinti di allontanare la paura di cambiare, verremo ancora alle vostre porte e grideremo ancora più forte, per quanto voi vi crediate assolti, siete per sempre coinvolti, per quanto voi vi crediate assolti, siete per sempre coinvolti. E ritorniamo in diretta, questo è Jolly Roger tutti i venerdì dalle 17 alle 18, in diretta su pirateradio.it e a breve anche su Gemini Network. Salutiamo tutti gli amici e tutte le amiche di Gemini Network, il network di radiodipendenti di tutta Italia. Questa è la puntata natalizia per Jolly Roger, puntata anche ricca, parleremo, insomma, ci sarà modo di ascoltare un'intervista che abbiamo realizzato con la cooperativa Alice. Non è l'Alice che sta qui con noi, ma è la cooperativa che si chiama Alice. Ma intanto, settimana scorsa, sono finiti quelli che sono stati i mondiali, che almeno personalmente, a parte la finale, non ho seguito minimamente, però sono contento per come è finito. Quindi è un modo per ringraziare e per festeggiare alla maniera nostra tutto il popolo e tutti i tifosi dell'Argentina. Argentina nací, tierra de Diego y Leonel, de los pibes de Malvina que jamás olvidaré. No te lo puedo explicar porque no vas a entender las finales que perdimos, cuántos años las lloré. Pero eso se terminó porque en el Maracaná la final color azúcar la volvió a ganar papá. Muchachos, ahora no volvimos a ilusionar. Quiero ganar la tercera. Quiero ser campeón mundial. Y al Diego en el cielo lo podemos ver. Con Don Diego y con la Tota. Alentándolo a Lionel. Perché Jolly Roger ha tifato Argentina. A Francia proprio non c'è cala. Muchachos, ahora no volvimos a ilusionar. Quiero ganar la tercera. Quiero ser campeón mundial. Y al Diego en el cielo lo podemos ver. Con grande Argentina, grande Messi, abbiamo tifato fortemente la nostra Argentina, siamo contenti di aver festeggiato a maniera nostra il risultato di questo mondiale molto discusso. Intanto è passato a salutarci il nostro amico Giovanni, che ormai appartiene, nonostante i chilometri di distanza, a quello che è Jolly Roger. E niente, praticamente abbiamo parlato di Argentina, visto che la settimana scorsa a lungo abbiamo parlato di quelli che sono stati un po' i mondiali. E questa è, come dicevo prima, è l'ultima puntata dell'anno di Jolly Roger, è anche un anno di programmazione di quello che è una nostra creatura a cui teniamo in maniera particolare. E finalmente, dopo circa 2-3 settimane fra influenze, impegni e compagnia bella, la crew di Jolly Roger è al completo. Quindi iniziamo con un altro pezzo e poi proseguiamo e iniziamo con la nostra intervista. Dopo l'intervista c'è l'intervento del nostro amico, compagno, assessore Luca Blasi, che ci parlerà di un'iniziativa che si darà questa sera in quel di Piazza Sempione. Intanto andiamo con la musica e poi ritorniamo con le parole. I took much of heaven. Lo so, un amore tossico, se il mio sbaglio più bello adesso che ti ho riperso in paradiso, suona disco inferno e gira la testa più di me. Vedo bianco, ma è soltanto il tuo vestito è una festa. E neanche mi dici ciao, parlavamo di tutto, non nemmeno un ciao. Con te ero nato come un jet top gun, la notte volava sopra la città. Rido ma forse vuole piangere, al cocktail aggiungerò una lacrima. Mi ha detto ancora di no, oh, oh. Mi ha spento come un iPhone. E siamo sempre fresh qui a Jolly Roger. Bunda Bash Fel 65. Baciami come sai tu, che ti giuro stavolta non lo scorderò. Come quando di notte nella punto blu facevamo l'amore sopra One Love, io e te. Giornate nere senza un anno, come le case ad Amsterdam. Siamo cani sciolti in libertà, ma più belli insieme come gli hooligans. Se ridi l'altra sera una festa, neanche mi hai detto ciao. Too much of heaven can bring you underground. Ritorniamo sempre in diretta, questo è Jolly Roger. Parlavamo a inizio puntata, qualche minuto fa, appunto della nostra intervista con la cooperativa Alice, che presenta un progetto che si chiama Monte Sacro. Sono una serie di eventi che sono sponsorizzati anche sui vari social. Noi, anzi, i ragazzi di Jolly Roger hanno fatto appunto un'intervista per capire quello che è realmente il progetto Monte Sacro. E passo il mic a Luca con la sua prima domanda e poi ascoltiamo la risposta, ovviamente. Buonasera a tutti, io sono Luca. La scelta di Monte Sacro e quindi del terzo municipio è una scelta casuale o cosa? La scelta di svolgere questa iniziativa nel quartiere Monte Sacro nasce sia, diciamo, dalla sollecitazione di un bando che è stato proposto dal terzo municipio, che riguardava proprio le attività culturali per il quartiere. E quindi noi, che insomma dall'86 la cooperativa Alice si occupa di attività sia per giovani, bambini, adulti, proprio per incentivare la promozione della cultura, della didattica e quindi la diffusione di queste iniziative, e abbiamo voluto cogliere questa occasione. Inoltre, la nostra sede, prima eravamo in un altro quartiere, quindi diciamo nell'ultimo anno, a seguito del trasferimento, siamo venuti qui nel terzo municipio, e quindi ci è sembrato proprio un'ottima occasione per diciamo cominciare a metterci anche in rete, insomma, con gli enti locali. Quindi questa iniziativa, che proprio prende il nome di Monte Sacro, storie e ricordi fra ponti, piazze e giardini, proprio vuole promuovere e valorizzare questo quartiere, quello di Monte Sacro e di Città Giardino. E quindi, appunto, diciamo, questo è stato il punto di partenza. E ritorniamo sempre in diretta, facciamo fare da Matteo la seconda domanda. Possiamo dare un piatto nella gloria, ossia non i bambini, come c'è Doni a Coprotto. Questa iniziativa sicuramente si può considerare un viaggio nella memoria attraverso la narrazione, per chi non conosce il quartiere, quindi ai bambini, ai giovani, per conoscere la storia anche di un passato vissuto qui, sia da parte dei loro nonni che degli anziani che vivono qui a Monte Sacro, e anche con l'ausilio poi di una proiezione che prevede gli estratti di Ladri di biciclette di De Sica, che negli anni 40 è stato girato interamente a Roma, e ci sono molte scene che ripercorrono proprio il quartiere quando era veramente molto molto diverso, e circa negli anni 40. Quindi il protagonista abitava a Valmelaina, quindi varie scene, e il bambino poi lavorava, il figlio, qui a Piazza Sempione. E varie scene sono proprio una riproduzione lontana di quello che oggi è il contesto in cui vivono questi bambini e questi ragazzi. Sicuramente non è da meno ovviamente l'aspetto storico, artistico e anche ambientale che viene toccato nelle varie tappe della passeggiata che si fa inizialmente, perché attraverso diciamo, i racconti di un nostro storico, di una guida storico-artistica e di una guida ambientale, verrà fatta questa passeggiata che tocca appunto i punti salienti per ripercorrere la storia, l'archeologia, il vissuto anche del quartiere Montesacro e di quello di Città Giardino. Quindi è sicuramente un percorso che va vissuto sotto vari aspetti e speriamo insomma che le persone si sentano coinvolte così come è stato quando l'abbiamo già fatto il 20 in cui appunto i nonni è stato un piacere sentirli raccontare, gli anziani che erano presenti, le loro storie, i loro vissuti qui e avere insomma di risposta il confronto con il vissuto dei bambini e dei ragazzi. Quali saranno le modalità dell'evoluzione del progetto dopo Montesacro? Quali saranno altre tappe? Il progetto si conclude con la fine di dicembre, infatti anzi colgo l'occasione perché le altre due date in cui verrà svolto sono il 28 di dicembre e il venerdì 30. Ora, per il 28 è stato insomma prese già tante prenotazioni, quindi siamo in sold out con anche una lista di attesa. Per il 30 invece abbiamo ancora posti disponibili, quindi invito gli ascoltatori e chi fosse interessato a iscriversi e prenotarsi per tempo. Questa attività, appunto, dicevo, sì, è stata, diciamo, un'occasione per cominciare una collaborazione con il terzo municipio. Che ha ovviamente finanziato tramite questo bando anche altre iniziative e anche se insomma termineranno con la fine del mese. Proveremo a portare questa iniziativa ovviamente anche con la disponibilità per chi è del quartiere e volesse approfondirne la conoscenza, avere comunque la possibilità di un confronto come per le scuole. Noi insomma da anni lavoriamo e collaboriamo con numerosi istituti scolastici di Roma e provincia, anche perché organizziamo campi scuola e visite culturali, attività didattiche, laboratori. Quindi c'è già insomma una vasta rete che potrebbe essere un'utenza interessata a proseguire questo tipo di percorso. Ciò non toglie che siamo ovviamente aperti, così come tra l'altro è capitato, ci è stato già richiesto di svolgere percorsi simili ma in altri quartieri. Quindi adesso in collaborazione o meno insomma con gli altri municipi speriamo di coinvolgerli per cercare di promuovere le bellezze che sono all'interno di Roma e con ovviamente la possibilità, come in questa occasione, di far partecipare gratuitamente chi è interessato. Grazie mille. Ringraziamo anche noi la cooperativa Alice e grazie per il tempo che ci ha dedicato. Soprattutto invitiamo tutti quanti a seguire quelli che sono i progetti, soprattutto a supportare i progetti che riguardano soprattutto posti territoriali. E noi proseguiamo il primo pezzo musicale dedicato al Natale di Jolly Roger e poi torniamo in diretta sempre dal Brancaleone. it's Christmas. Thank God it's Christmas. One night. Entriamo in diretta, questo è Jolly Roger. Abbiamo parlato appunto poco fa del progetto Montesagro e ora parliamo di un'altra iniziativa che si svolgerà questa sera a Piazza Sempione. E ringraziamo il nostro amico Lucone Blasi, nonché assessore al terzo municipio, e questo è quello che ci ha da dirci il nostro amico. Ciao, buonasera a tutti e a tutti gli amici e le amiche della Radio Jolly Roger. È un piacere essere qui con voi, e soprattutto perché appunto questa trasmissione è fatta da delle persone a cui voglio molto bene, da una cooperativa importante, ed è fatta nei locali del Brancaleone, che è uno spazio che amo, uno spazio fondamentale per la cultura nel nostro territorio. Questa sera faremo il concerto di Natale, un concerto gratuito che ci viene donato da una nostra amica e pianista che abita nel nostro territorio, che si chiama Claudia Troisi, e suonerà una serie di musiche di autori contemporanei, da Levi ai Iruma. Insomma, per due ore ci alliterà con la sua musica e anche con immagini invece di quadri e altre installazioni artistiche che proietteremo sul municipio. È un concerto che organizziamo proprio come municipalità, come momento collettivo, aperto a tutti, e con l'occasione coglieremo anche dei fondi per Nonna Roma, l'associazione che molti conoscono e molti conoscono, che si occupa di contrasto alle diseguaglianze e alle povertà, che costruisce attivismo e welfare dal basso rispetto alle fasce più deboli della popolazione, e che anche nel nostro territorio ha svolto un ruolo fondamentale durante la pandemia attraverso il ruolo della Brigata di Solidarietà, che fa parte di Nonna Roma e che si trova alla strada di Via Capraia. Questa raccolta fondi avrà l'obiettivo di implementare e aiutare le attività di questa associazione. Noi siamo veramente molto orgogliosi che il nostro municipio utilizzi la cultura anche per sostenere chi dal basso in qualche modo cerca di non lasciare nessuno e nessuna indietro. Grazie per avermi ospitato, grazie a Jolly Roger, a questo fantastico progetto, spero di vedervi tutti quanti a Piazza Sempione. A dopo. Grazie al nostro amico Lucone, e noi passiamo un altro pezzo musicale e poi ritorniamo in diretta sempre su pirateradio.it. Questo è Jolly Roger, tutti i venerdì dalle 17 alle 18. Hey. It's Monday, yeah. E allora prendi la mia mano, bella signorita. Disegniamo sopra il mondo con una matita. Resteremo appesi al treno solo con le dita. Pronta che non sarà facile, è tutta in salita. Allora prendi tutto quanto, baby, prepara la valigia. Metti le calzare del taco, splendiamo in questa notte grigia. Amore accanto a te, baby, accanto a te, io morirò da re. Amore accanto a te, baby, accanto a te, io morirò da re. E amore accanto a te, bevi accanto a te, io morirò da re. Ed anche quando starò male sarò troppo stanco. Come fuoco avanzerò per prendere tutto quanto. Ciò che aspetta è d'essere pronto ad affrontare il branco. Non voglio tornare indietro, adesso parto. Allora bevi, bevi, bevi, asciuga il pianto. Bevi, bevi, bevi, bevi dal mio piatto. Sì, tu puoi cadere in piedi anche dall'alto. Sì, tu puoi cadere in piedi anche dall'alto. E amore accanto a te, bevi accanto a te, io morirò da re. E amore accanto a te, bevi accanto a te, io morirò da re. Amore accanto a te, bevi accanto a te, io morirò da re. Yeah. Amore accanto a te, bevi accanto a te, io morirò da re. Yeah. Marlena, vinci la sera, spogliati nera. Prendi tutto quello che fa comodo e sincera. Apri la vela, dai, viaggia leggera. Tu mostra la bellezza a questo popolo, Marlena. Vinci la sera, spogliati nera. Prendi tutto quello che fa comodo e sincera. Apri la vela, dai, viaggia leggera. Tu mostra la bellezza a questo popolo, Marlena. Vinci la sera, spogliati nera. Prendi tutto quello che fa comodo e sincera. Apri la vela, dai, viaggia leggera. Tu mostra la bellezza a questo popolo e Dio. Amore accanto a te, bevi accanto a te, io morirò da re. Yeah. Amore accanto a te, bevi accanto a te, io morirò da re. Yeah. Amore accanto a te, bevi accanto a te, io morirò da re. Yeah. E amore accanto a te, bevi accanto a te, io morirò da re. E moriremo da re oltre che da eroi, questo è il nostro intento. Questo è Jolly Roger, tutti i venerdì dalle 17 alle 18. È la nostra ultima puntata di questo 2022, è stato un anno ricco, è stato il nostro primo anno di attività, di laboratorio, di programma. Abbiamo condiviso Covid, non Covid, aperture, chiusure, estate, autunno, la primavera che non ci sta più, ma e siamo arrivati finalmente a Natale. Quindi oggi, visto che praticamente siamo in antivigilia natalizia, raccontiamo un po' quello che è il nostro Natale, quello che è il Natale dei ragazzi di Jolly Roger. Il mio Natale è detto personalmente un Natale abbastanza con la famiglia. Anche se personalmente, come dicevamo prima, noi odiamo sostanzialmente un po' il Natale, ma più che odiamo il Natale, odiamo questo buonismo che si nasconde in maniera molto velata, odiamo il traffico, odiamo la gente che frequenta qualsiasi tipo di negozio e crea file su file. Ma questo, come si dice, anche il bello del Natale. E ora sentiamo un po' cosa hanno da dire anche i ragazzi sul Natale. Passo il mic ad Alice. Allora, come passiamo questo Natale? Raccontaci un po', Ali. Io il Natale lo passo domani con zio Paolo, credo lui porterà dei dolcetti, qualcosa da mangiare. Senti, a proposito di mangiare, che si mangia, carne o pesce a casa tua? Ma di solito sì, carne e pesce. Un mix, tipo mare monti, va bene così. Allora, noi mangiamo cannelloni al sugo. Ma questo è il 24 o il 25? 24. Allora, partiamo dal 24. Domani cannelloni. Grandi cannelloni, poi? Ecco la Coca-Cola, poi gli diamo magari una cosetta, qualche dolcetto, un bel pandoro. Spizzetto. Addirittura qualche sprizzetto, siamo proprio esaggi. Spizzetto qualche proprio. sfizietto. Oggi mi ha confessato, prima di venire qua, mentre ne stavamo iniziando la puntata, mi ha detto: ma lo sai che sto iniziando a bere il vino? Ho fatto, quindi vedi, a Natale poi ti puoi bere un goccetto di vino che fa bene. Io infatti bevo il vino da nonna, praticamente vado da nonna, ogni volta che lei beve il vino io bevo un goccetto di vino con l'acqua, che chiacchiera ovviamente parite, che io sono una tacchiona. Senti, allora, visto che ci siamo, salutiamo nonna. Come si chiama nonna? Patrizia. Mitica, che vedrai quando? Domani o dopodomani? la vedrò a Natale. Perfetto, perfetto. Allora, sentiamo invece il nostro amico Matteo cosa ci racconta di questo Natale. Come e dove lo passerai? A Roma? A Roma, io a Roma perché io e domani mattina toccata perché con E la sera che fai? la sera che fa? Senti, stai lui venendo ha detto che domani aiuta mamma a cucinare, quindi io lo dovevo dire assolutamente perché sta cosa poi verificheremo se è vera. Quindi tu stai a casa? L'aiuti, mamma? Aiuto a preparare aiuto a preparare i dolcetti. Mi dico sì, effettivamente confermo. Matteo, cioè, se si tratta di dolci fatti tipo cake, biscotti e compagnia bella, è veramente un master chef. Ora, visto che ci siamo, mancava dolcis in fundo, come si dice, il nostro amico Luca, che nel frattempo è arrivato anche il nostro amico Lucone, che salutiamo. Dopo passo anche a lui il mic, che da famoso poliglotta anche oggi ci farà un saluto in qualche lingua particolare. Ora, sentiamo un po' tu, Luca, come passi questa vigilia di Natale? Allora, domani sicuramente saremo 17 persone, a parte mia zia Mamela che lavora, quindi saremo io, i miei fratelli, i miei genitori, mia cognata Lavinia, che ora chiamo Lalli, poi mia cugina di 8 anni, Rachele, zia Francesca, zio Matteo, zio Gabri, zia Fede. Insomma, tutto il settimo parentato. Però una cosa non mi hai detto, mi hai elencato i parenti, ma non mi hai elencato i cani, che chiaramente non li contiamo come persone umane, ma li contiamo perché pure loro festeggiano. I cani sarebbero Fonzie, Jack Russell, Penny, Jack Russell, Romola, After Pincher e Goliath, un Boraton, tra un Labrador e un Border Collie. Mi dico, senti, ma tu gli hai fatto un regalo anche ai cani oppure no? Questa cosa io non ci ho pensato perché giustamente è Natale, a parte loro bisogna farli per i più grandi. Vabbè, peccato, io un regaletto alla mia piccola Chihuahua Toy l'ho fatto, anche alla mia gatta che saluto, che anche loro ci ascoltano alla maniera loro. Vedo un ditino che mi indica e passo subito il mic ad Alice. Tu che gli hai preso la tua gattina? Io ho preso alla mia gattina, ancora non abbiamo preso niente, però oggi volevo scendere, io volevo prendere i croccantini. Mi dica, vabbè, allora dai, facciamo una cosa, tanto domani è ancora aperto, quindi fai in tempo a prendere un pacchetto dei croccantini, gli fai un bel fiocchetto e glielo metti sotto l'albero. Magari è meglio. Dai, e nel frattempo è arrivato anche Lucone, che visto che ci siamo facciamo fare un saluto in lingua, lui è il famoso poliglotta della crew di Jolly Roger. Intanto faccio un saluto. Dopo aiuto. Mitico, che vuol dire in serbo buonasera a tutti, ciao a tutti. Ora, Luca, anzi, visto che ci siamo e mi permetto, facciamo gli auguri a mamma. So che qualche giorno fa, 2 giorni fa o ieri, non ricordo, è stato il compleanno, quindi salutiamo e facciamo gli auguri alla mamma di Luca e dedichiamo il prossimo pezzo ovviamente alla mamma di Luca. E poi ritorniamo sempre in diretta, questo è Jolly Roger. Volevo dirti tante cose, ma non so da dove iniziare. Ti vorrei viziare, farti scivolare addosso questo mondo infame.

sempre imbazzato, fumo un bazooka, non faccio scena ma scena muta. Farfalle nello stomaco, dammi l'insetticida. Voglio ridisegnare il mondo, dammi una matita. Voglio ridere come non avessi mai pianto. Voglio la luna e camminarci sopra come Armstrong. L'abbiamo fatto ed ero innamorato finalmente. Ma il giorno dopo già non provavo più niente. Portami sulle onde dell'oceano quando si alzano. Uccidimi e fammi risorgere come con Lazzaro. Dammi tutto lo stato puro, di più di un vestito scuro, di un roseo futuro. Non mi ammazzerà una sbronza ma il primo bicchiere sicuro. Fammi provare di più che contare il cash, di più di un menage a tre, dammi più di un film, più di un drink, più della marijuana, più di un trip di Stamis mezza brasiliana, di una hit, di una suite a Copacabana, di un DJ, più di un rave in mezzo alla savana, più del successo, più di fare sesso ad alta quota, più di ogni banconota, più della coca, più dei gioielli ed orologi, anelli che ho alle dita, più di questa libertà, più della stessa vita. Questo mondo fa troppo chiasso, io non sento più quello che penso, quello che è peggio non ricordo più quello che ho perso. In un paese dove onesto rima con modesto, tutto è piatto e tu ti sorprendi se io ci stendo. Fuori carri carnevali, dentro carri armati, i miei amici vaporizzati, gialli a Nagasaki, ridotto a esprimermi in 24 carati, stati d'animo in 140 caratteri. Io non so chi tu pensi io sia, la realtà non è all'altezza della fantasia. Certe idee che mi accarezzano e che scaccio via, un brivido che faccia breccia nella mia apatia. Non sei più mia e ti trovo male, il tuo nuovo ragazzo ti invecchia, ma resti bella e triste come il paesaggio a Venezia. E non avrò paura se saremo insieme, una morte dolce come una mosca che affoga nel miele. Più di un film, più di un drink, più della marijuana, più di un trip di Stamis mezza brasiliana, di una hit, di una suite a Copacabana, di un DJ, più di un rave in mezzo alla savana, più del successo, più di fare sesso ad alta quota, più di ogni banconota, più della coca, più dei gioielli ed orologi, anelli che ho alle dita, più di questa libertà, più della stessa vita. Divido, non so per quanto sarò qua. Voglio un brivido, ho emozioni soltanto a metà. Sono in bilico, su una lama che mi taglierà. Ed è ripido, corro e non mi conto indietro fa. Più di un film, più di un drink, più della marijuana, più di un trip di Stamis mezza brasiliana, di una hit, di una suite a Copacabana, di un DJ, più di un rave in mezzo alla savana, più del successo, più di fare sesso ad alta quota, più di ogni banconota, più della coca, più dei gioielli ed orologi, anelli che ho alle dita, più di questa libertà, più della stessa vita. E ritorniamo in diretta, questo è Jolly Roger. Appunto, parlavamo un po' del Natale, di come si passa, lo passeremo tutti in famiglia. E chiaramente Alice ci ha già svelato il menù, ma ora passo un attimino il mic al nostro amico Luca e Matteo, che ci raccontano anche il loro menù. Il mio menù per Natale, per la cena del 24 dicembre, ovvero domani, frittura di pesce a cena, mentre per pranzo il 25 casomai dei cannelloni come alle 18, mentre per cena vorrei un bel pollo all'arrosto con patate al forno e cheddar. Medico, io invece il menù domani andrò a comprare, anzi a ritirare mitiche vongole e calamari, quindi farò un ricco spaghetto con le vongole, dei calamari e poi non lo so, vediamo un attimino che altro si crea, anche perché tanto c'è, cioè, il 24 è, diciamo, l'ante magnereccio dei, che sarà il 25, e quello è opera della, a cura della mamma, e quindi non si discute. Invece Matteo, cosa, carne, pesce, una via di mezzo, cosa cucinerai? Tu i dolcetti, mamma? Mamma prepara i pesce e le canne, perché è normo. Allora, a me mi piace molto Giulia e Maiura Marera. Mi dico, senti, allora, fai tante cose, diciamolo perché è giusto dirlo, visto che si parla di ricorrenze o altro. Ieri è stato il compleanno del nonno di Matteo.

io sono molto più contento. E siamo arrivati alla fine di quello che è Jolly Roger, in onda tutti i venerdì dalle 17 alle 18, come sempre dal Brancaleone. Ultima puntata per noi, ringraziamo tutti gli ascoltatori e tutte le amiche e gli amici che ci supportano. Vorremmo salutare singolarmente uno per uno, ma siamo troppe persone a dover salutare, quindi è un saluto che è un abbraccio rivolto a tutti quanti. Riascoltateci tramite podcast, supportate Jolly Roger, sostenete Pirate Radio, questa è la mia raccomandazione. Volevo augurare buon Natale a tutti quanti, a tutti gli amici e a tutte le amiche vicine e soprattutto lontani. Ora passo il mic ai ragazzi per i saluti e sicuramente ci vedremo troppo bello, ma noi apriamo, quindi chi vuole venire è invitato a Jolly Roger e ci riascoltiamo a anno nuovo, a gennaio 2023. Buon Natale a tutti, buon Natale alla cooperativa, spero di rivedere Nicola e ci rivediamo venerdì 13 gennaio 2023. Mazza, guarda come sta avanti e già sa quando ci rivediamo. Ciao a tutti, buon Natale. Vorrei darvi il buon Natale a tutta la cooperativa, anche gli auguri che abbiamo fatto, soprattutto che è stato il compleanno. Auguri cooperativa. Grazie, poi il nostro amico Matteo. Buon Natale a tutti! Mitico, buon Natale a tutti! Buon Natale a tutti! Grande Lugone e un buon Natale a tutti e a tutte. Si risente il prossimo anno, 2023. I'm just feeling.